Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È arrivato nelle librerie italiane l'attesissimo seguito del bestseller Il profumo delle foglie di limone della spagnola Clara Sanchez. Si intitola Lo stupore di una notte di luce, pubblicato da Garzanti con la traduzione di Enrica Budetta. Naturalmente tornano alcuni dei personaggi principali del profumo delle foglie di limone. Innanzitutto Sandra, la donna che era stata accolta in casa da una coppia di anziani quasi, insomma, come una figlia, ma solo dopo un po' di tempo lei aveva scoperto che in realtà erano due ex criminali nazisti. In questo nuovo romanzo Sandra è diventata madre. Un giorno trova nella cartella del figlio uno strano biglietto dove c'è scritto «Dov'è Julian?». Capisce quindi che il suo vecchio amico Julian è in pericolo. Julian infatti era sopravvissuto ai campi di concentramento, a Mauthausen in particolar modo, e aveva dedicato tutta la sua vita a dare la caccia agli ex criminali nazisti. Ma perché Clara Sanchez ha deciso di far passare, come dire, alcuni anni prima di scrivere il seguito del suo bestseller? Sentiamo cosa ci ha risposto con la traduzione di Rossana Ottolini. Perché quedaron colgando muchas cosas en el profumo de foglie de limone che io deseava desarrollare. Sentivo di avere lasciato diversi cavi sciolti, molte cose in sospeso con la fine del profumo delle foglie di limone, cose che volevo approfondire, sviluppare ulteriormente, che comunque volevo che tornassero alla vita. Tra l'altro non so se si sappia qua in Italia, ma in Spagna all'epoca dell'uscita del profumo delle foglie di limone, che aveva vinto anche un premio, quindi ha attirato su di sé l'attenzione di molti, ho ricevuto da parte di alcune persone che in qualche modo erano legate a chi si è riconosciuto nei protagonisti e nei personaggi di quel romanzo, delle lettere abbastanza sgradevoli, delle minacce, o comunque delle lettere intimidatorie. Diciamo che questo insieme di cose ha fatto sì che io decidessi all'epoca di prendere un po' le distanze da una possibile continuazione in quel momento, e non volevo incitare ulteriori reazioni, per così dire. Col senno di poi devo dire che questi anni che sono passati sono stati un bene per il nuovo romanzo, perché nel frattempo i personaggi di allora sono diventati più maturi, si sono evoluti, si sono consolidati meglio, a cominciare dalla stessa Sandra, che abbiamo lasciato nel profumo come una ragazza un po' disorientata, anche un po' egoistella a volte, che invece qui si è trasformata in una donna tutto tondo, che ha anche saputo imporsi sui suoi desideri, sui capricci, così le sue ossessioni, sull'altare della necessità e del dovere di allevare e proteggere un figlio. Per quanto riguarda Julian, lui in questo tempo ha meglio messo a punto, ha sofisticato alcune trame della sua vendetta, del suo regolamento di conti personale nei confronti del boia più importante, diciamo, del suo passato, che poi è il macellaio di Mauthausen. Ma devo anche dire che nel frattempo ci sono stati alcuni eventi, accadimenti nella realtà nostra che avevamo visto, diciamo, un po' nascere, un po' in embrione nel profumo delle foglie di limone, laddove c'erano quei giovani discepoli che orbitavano intorno ai vecchi nazisti e che nella realtà odierna sono diventati più forti, più numerosi, meglio organizzati, più ramificati, e che vediamo dilagare un po' ovunque in Europa sotto forma di partiti di estrema destra, neonazisti, xenofobi e quant'altro. Quindi diciamo che nello stupore di una notte di luce troviamo la conseguenza naturale di quello che raccontiamo nel profumo delle foglie di limone, e in questo nuovo romanzo quei giovani neonazisti hanno il protagonismo di questi nuovi disegni, questi progetti, chiamiamoli così, ideologici o politici. Quindi i lettori che già conoscono il profumo troveranno nello stupore di una notte di luce i personaggi che già conoscevano ed amavano, ma anche dei nuovi personaggi. Se van a encontrar con Julián y con Sandra, pero también con unos nuevos personajes que les van a sorprender muchísimo. Ho letto in un'intervista che hai detto che questo libro ti è venuto anche per una sorta di vendetta, per una voglia di vendetta, di rivalsa. Ma a parlare è Clara Sanchez la scrittrice, o Clara Sanchez che si è immedesimata con i suoi personaggi, con Julian per esempio, e quindi ha voglia appunto di vendicarsi? Chi è delle due che parla? No sé, a veces en la vida, no? En muchos aspectos. Non saprei, forse io credo che il mondo del lavoro è quello che in qualche modo ti lascia qualcosa che può ingenerare a lungo termine una voglia di vendetta o di rivalsa di qualche genere, ma ovviamente non oserei mai, né mi verrebbe mai in mente di mettere in pratica tali vendette. Però devo dire che la sensazione di vendetta che faccio vivere a Julián mentre si vendica del suo boia è un qualche cosa di cui ho goduto profondamente attraverso di lui. Non ci sono forse cose concrete per le quali sento una necessità di vendetta o di rivalsa, perché non sono molto vendicativa per natura, ho una cattiva memoria, quindi impossibile mantenere così il resoconto dei torti subiti, però se ci penso bene qualcosina forse c'è, penso che adesso ho pareggiato i conti. Già stanno cumplite. In questo libro, l'abbiamo detto, Sandra è cresciuta, è diversa rispetto al profumo delle foglie di limone, perché da ragazza e donna è più consapevole, insomma, è anche più equilibrata come persona. Julián è rimasto sempre lo stesso, ha sempre la voglia ancora di andare a caccia dei criminali nazisti. Non è riuscito a fare pace col suo passato. Bueno, él creía que con digamos que la venganza que estaba ejerciendo sobre el carnicero ya se terminaba todo. Ma diciamo che Julián fino a qualche tempo prima pensava che la vendetta che ogni giorno riesce a portare a termine sul macellaio di Mauthausen sia la fine dei suoi progetti e il suo ultimo scopo, ma ad un certo punto del libro succede qualcosa che scatena tutta una serie di avvenimenti, ma soprattutto scatena una nuova ricerca, un nuovo inseguimento, una sottotrama di grande trepidazione. C'è da dire che alcune persone pensano che Julián sappia qualcosa, che loro ignorano, e Julián non sa che cosa sia questa cosa e capisce che per la sua sicurezza deve assolutamente scoprire di che cosa si tratta. Quindi anche questo evento, diciamo, dà il là per un'altra sottotrama ancora nell'avventura generale. Ma in particolar modo potrei riassumere il tutto dicendo che Julián alla fine capisce di essere una vittima del suo passato. Julián es que él en realidad es una víctima de su pasado. Questo libro è dedicato anche alla memoria di tuo papà. Spesso hai ripetuto che il personaggio di Julián si rifà in parte a tuo padre. In che cosa? Bueno, Julián le debe mucho a mi padre, le debe las arrugas. Julián onestamente deve davvero tanto alla figura di mio padre, gli deve le rughe, gli deve i problemi cardiaci, gli deve le 10 pastiglie al giorno che mio padre prendeva e che Julián prende, le cure di cui ha bisogno, gli deve la vulnerabilità, la fragilità fisica, ma gli deve anche qualcosa che io ho sempre ammirato tantissimo nella figura di mio padre. Mio padre detestava quel sentimento, quel senso di compassione che la sua vecchia, la sua fragilità suscitava negli altri. Ricordo che anche nelle estati più torride si metteva le camicie con le maniche lunghe per evitare che vedessero le sue braccia così magre. Quindi lui detestava davvero sentirsi una vittima della vecchiaia e sapeva imporsi e superare questo, chiamiamolo così, problema connaturato all'essere umano. In ogni modo, non ha mai accettato l'idea della fragilità che gli altri vedevano in lui. Lui si ribellava contro la fragilità della vecchiaia e effettivamente mio padre non mi ha mai fatto pena e gli sono straordinariamente grata per questa immagine che ha saputo trasmettere. Lui, diciamo, ha saputo sempre vincere sulle sue debolezze e questo lo ritroviamo in Julián che riesce a sconfiggere la debolezza della vecchiaia per portare a termine la vendetta e il regolamento di conti che è giusto che porti a termine e per aiutare Sandra. In qualche modo la presenza di Sandra che il destino mette sul suo cammino, sulla sua strada, è un messaggio che gli dice: non tutto è concentrato nel tuo passato, c'è anche un futuro di cui ti devi occupare e anche il futuro importante conta. Ma io credo che in generale si possa dire che comunque tutti i personaggi di questo romanzo lottino per trovare il lato più luminoso, più armonioso, più sereno della vita e per farlo affiorare. Van hacia la luz, hacia lo luminoso. Están dejando atrás la oscurità, la noche. Nel profumo delle foglie di limone era molto presente il concetto di manipolazione. C'era la coppia appunto di nazisti in incognito che di fatto avevano manipolato Sandra. Sandra non sapeva che loro fossero dei nazisti. In questo Lo stupore di una notte di luce piace molto l'indagine sul bene e sul male, su che cos'è il confine fra il bene e il male. In questo caso, per esempio, faccio riferimento ai movimenti neonazisti e così via, a cui facevi riferimento anche tu. Come scrittrice, tu prendi posizione nei tuoi romanzi o lasci che i personaggi parlino con una voce propria? Hai un giudizio sui tuoi stessi personaggi o no? No, io dejo che attuen. No, direi che assolutamente no, lascio che i miei personaggi agiscano, parlino e si comportino un po' come credono, senza, diciamo, dare un giudizio morale sul loro operato. Ora, è vero che se c'è uno psicopatico nella storia, nella fattispecie uno psicopatico c'è, lo vedremo nello Stupore di una notte di luce. Non nego che si tratti di uno psicopatico, però per esempio c'è un altro personaggio, Frida, che nel Profumo delle foglie di limone era un personaggio secondario e assolutamente detestabile, era una sorta di soldato della confraternita, che qua diciamo è sottoposto a una sorta di evoluzione quasi positiva, diciamo che è come se si muovesse verso una dimensione un pochino più umana, è come se Frida in qualche modo si scheggiasse nella sua ruvidità, e questo non vuol dire che la tolleriamo, la giustifichiamo, semplicemente riusciamo in qualche modo a capirla meglio. Io credo che i miei romanzi non sono né militanti, né in essi esprimo un giudizio di sorta di nessun genere, tuttavia io credo che la dimensione morale in ogni gesto che noi facciamo, in ogni parola che diciamo, ovviamente esiste e si manifesta autonomamente. Hay una dimensión moral que sí que se nota. E questa era Clara Sanchez, ora in libreria con Lo stupore di una notte di luce, sequel del bestseller Il profumo delle foglie di limone. Una breve pausa, poi parleremo ancora. Il cacciatore di libri. Abbiamo parlato di Clara Sanchez con l'atteso ritorno del Profumo delle foglie di limone, ora parliamo di un altro romanzo atteso in Italia, perché è uscito in Gran Bretagna e arriverà fra poco, fra un po' di mesi, nelle librerie italiane, precisamente a marzo 2017. Parliamo dell'ultimo romanzo dello scrittore inglese Ian McEwan. Il titolo potrebbe essere Guscio di noce, la traduzione letterale del titolo inglese, ma non è certo. Una breve trama: c'è una donna, Trudy, che ha una relazione extraconiugale con il cognato e proprio con la sua complicità decide di uccidere il marito, quindi il fratello del suo amante, insomma. La donna è incinta e l'originalità di questo romanzo è che la storia viene raccontata dal punto di vista del feto di 9 mesi. Nel testo, fra l'altro, ci sono molte citazioni shakespeariane. McEwan è noto al grande pubblico soprattutto per romanzi come Espiazione, da cui fu tratto un film Oscar per la miglior colonna sonora nel 2008, di cui stiamo sentendo un brano di Dario Marianelli. Ma di McEwan si ricorda anche L'amore fatale, che alcuni considerano il suo capolavoro. In genere, nei romanzi, Ian McEwan analizza l'aspetto più problematico della personalità. In Espiazione era il senso di colpa, in L'amore fatale, appunto, questa persecuzione, questa forma di stalking. Perché McEwan preferisce così analizzare l'aspetto più nero della personalità umana? Sentiamolo. Well, I think you could probably pose that question to the whole of literature. Credo che sia una domanda che si può porre a tutta la letteratura. Bisogna chiedere ad Omero perché ha mandato Ulisse in un viaggio così problematico, in un girovagare di 20 anni non molto piacevole, per poi tornare felicemente a Itaca e alla sua Penelope. E questo avviene già 2700 anni fa. Siamo creature difficili, capaci di atti di amore, gentilezza, coraggio, ma anche di crudeltà feroce e di indifferenza alla sofferenza altrui e così via. Siamo capaci di stupire, ma anche di fare paura. Non capiamo noi stessi a sufficienza. Esperti di psicologia da diverse parti del mondo sostanzialmente sarebbero in disaccordo se dovessero dare una risposta su cosa è la mente umana. Ancora non abbiamo una teoria esaustiva su questo argomento. Conosciamo noi stessi a malapena. E quindi la letteratura, insieme alla scienza e a tante altre forme di investigazione, provano solo a dare una definizione di chi siamo. Chiaramente non siamo esseri felici, non siamo esseri in pace, non abbiamo ancora trovato la felicità duratura, né come società, né come individui. Non rivendico nessuna particolare competenza riguardante l'oscurità del cuore umano. Sono soltanto un investigatore ortodosso della condizione umana. I don't claim any special expertise in the darkness of the human heart. I'm purely an orthodox investigator into the human condition. Tempo fa leggevo una ricerca, non so quanto attendibile, non ricordo sinceramente la fonte, secondo la quale nell'arco di una vita umana solo il 10% del tempo è stato scandito dalla felicità. Lei come commenta, diciamo, questo dato? Le ripeto, non so che base scientifica abbia, però insomma, come la vede? Well, this might be a very high score. I don't know, because 33% is... Beh, sarebbe un risultato davvero molto alto, perché, diciamo, il 33% della nostra vita lo passiamo a dormire. Un altro 20% a fare cose di routine quotidiana, come prendere un treno, allacciare le scarpe, lavare i denti. Quindi il 10% sarebbe un'ottima percentuale. Chissà. Ho visto un altro sondaggio tempo fa che mi ha sorpreso. L'85% delle persone in Gran Bretagna dicono di essere felici del proprio lavoro. Un altro sondaggio diceva che soltanto il 5% era felice. Non so, sono un po' scettico. Se tracciassimo un cerchio che parte dal nord-ovest dell'Europa e che include l'Italia, magari escludendo la Grecia in questo momento, purtroppo, ma che contiene anche la Spagna, nonostante quello che dice la gente, a confronto di tanti altri luoghi del pianeta, e ora siamo oltre 7 miliardi, quindi sto prendendo in considerazione solo 500 milioni di persone, troveremo un alto grado, non dico di felicità, perché bisogna distinguere tra felicità e benessere. La felicità è una cosa occasionale. Il benessere, invece, si riflette su circostanze generali. Hai una casa, hai cibo, hai un lavoro, fai un lavoro interessante, sei in buona salute e hai soldi a sufficienza. Considerati questi parametri, questa parte del mondo raggiunge un punteggio piuttosto alto. Ma comunque, all'interno di questa grande area, troviamo persone felici anche in uno stato di povertà assoluta. È questo che interessa uno scrittore. And yet within it we find individuals who are ecstatic with misery. So that's always interesting to the novelist too. Prima lei si è definito un investigatore, insomma, dell'animo umano. Cos'è che l'affascina in particolare? Quale punto di disequilibrio nella vita delle persone? Cos'è che le fa scattare la voglia di descrivere un personaggio e di renderlo protagonista di un romanzo? I don't really know how to answer that question. But lately I've been thinking... Non so bene come rispondere a questa domanda, ma ultimamente ho pensato molto al concetto di follia. Se conosci qualcuno tra i tuoi amici o i tuoi familiari che soffre di qualche forma di psicosi, di schizofrenia, delusione, ti rendi conto di quanto fragile sia questa corda su cui camminiamo, sulla quale a malapena capiamo cosa è reale e cosa non lo è. Quando ci svegliamo dai nostri sogni, capiamo che questi erano solo sogni. Se incontri persone che non riescono a fare questa distinzione, capisci quanto delicata e quanto fragile sia questa costruzione. È questo ciò che mi affascina delle persone. La loro essenza può essere facilmente distrutta. Pensiamo anche a una città della grandezza di Roma, Londra o Parigi, con 8 milioni di persone, 6 milioni di persone, che stanno tutte assieme e che nella maggior parte dei casi vanno d'accordo. È un miracolo, per quanto mi riguarda. Certo, ci sono gli omicidi, ci sono gli abusi domestici, ci sono i crimini, ma nel complesso è un sistema che regge bene. Le città sono una delle più grandi invenzioni. Quindi dobbiamo fare i complimenti a noi stessi. Abbiamo creato qualcosa di grande valore e molto, molto delicata, che può essere facilmente distrutta. La civilizzazione può velocemente fare un'inversione. Non se ne parla molto negli ultimi tempi, ma stiamo vivendo sul sottilissimo limite di una guerra nucleare. Gli Stati Uniti spendono decine di miliardi di dollari aggiornando le proprie armi nucleari. La Russia sta facendo la stessa cosa e così anche la Cina. Sappiamo che esiste la possibilità di un errore umano in ogni istituzione. Ora guardiamo indietro, a quanto siamo arrivati vicini a quell'eventualità con la guerra fredda e poi con la crisi cubana. Ma quanti altri momenti abbiamo avuto in cui ci sarebbe potuto essere un errore compiuto con le armi nucleari? È la delicatezza dell'equilibrio che abbiamo e di quanto facilmente possiamo perdere questo equilibrio che mi affascina. So, it's the delicacy of the balance we hold and how easily we could lose it, how easily all this could go, that fascinates me. Nel romanzo che uscirà in Italia, naturalmente in Gran Bretagna è già uscito, a questo proposito, qual è la molla che le ha fatto scattare l'idea di raccontare quella storia? Oh, I didn't say I was writing about madness. I said I was thinking about it. Not the same thing. Beh, io non ho detto che stavo scrivendo qualcosa sulla pazzia, ma che ci stavo pensando. Non è la stessa cosa. E il mio romanzo più recente non è sulla pazzia. È solo nella mia mente. Non è qualcosa che sto scrivendo. In inglese si chiama guscio di noce e deriva da un famoso passo dell'Amleto di Shakespeare. Potrei vivere confinato in un guscio di noce e tuttavia ritenermi re di uno spazio infinito, se non fosse che faccio brutti sogni. Si tratta di una rottura completa con tutto quello che ho scritto in passato. Abbandona ogni pretesa di realismo. È una fantasia selvaggia. Spero che qualche lettore possa trovarlo gradevole, in cui viene raccontata la storia di Amleto da una posizione narrativa molto particolare. Retells the story of Hamlet from a very strange rhetorical narrative position. Furbo far uscire un libro, un romanzo su Shakespeare durante l'anniversario. It was an accident. When I started in 2014, I wasn't... È successo per caso. Quando ho iniziato nel 2014, non... Cioè, sapevo quando era morto Shakespeare, ma non avevo fatto proprio i calcoli precisi che sarebbe stato quel momento. Ma ci saranno tanti libri su Shakespeare che usciranno quest'anno, almeno 50, quindi... Non sarà una cosa così straordinaria. So, you know, it's not exceptional. E questa era l'intervista allo scrittore inglese Ian McEwan. Il prossimo romanzo, lo ricordiamo, uscirà in Italia a marzo 2017. Stiamo parlando di libri molto attesi in questa puntata e allora Clara Sanchez è già uscito, Ian McEwan dovremo aspettare il 2017, ma parliamo del nuovo Harry Potter che è nelle librerie italiane da alcune ore, insomma dalla mezzanotte scorsa. Harry Potter e la maledizione dell'erede è l'ottavo volume, ma chiariamo subito, non è un romanzo, è un testo teatrale, bisogna saperlo per non rimanere insomma delusi, quindi testo teatrale sono tutti dialoghi. Si immagina la vita di Harry 19 anni dopo. Lui è sposato con figli e uno dei figli, insomma, non vuole la sua eredità di mago. In occasione dell'uscita di questo Harry Potter, la Salani, la casa editrice italiana che ha pubblicato tutta la saga, ha commissionato alla Doxa una ricerca sui ragazzi cresciuti appunto con Harry Potter. Dal 98, cioè dalla prima pubblicazione di Harry Potter in Italia, nel nostro paese sono stati venduti più di 11 milioni di libri del maghetto, quindi insomma un successo naturalmente planetario ma che riguarda anche il nostro paese. Cosa dice questa ricerca Doxa? Innanzitutto il campione sono 1689 bambini fra i 5 e i 13 anni a cui sono state aggiunte interviste a 615 giovani fra i 18 e i 30 anni. Alcuni dati, il 73% del campione intervistato ha letto Harry Potter. Ma insomma, Harry Potter ha influenzato, come dire, ha invogliato i ragazzi alla lettura. Allora, secondo questa ricerca Doxa, i lettori di Harry Potter attribuiscono alla lettura della saga il merito appunto di aver trasmesso la passione per la lettura. Vediamo però in che percentuale. Ha risposto di sì il 46% dei lettori forti, quindi erano già lettori forti e Harry Potter ha, come dire, incrementato ancora di più questa passione della lettura. E solo il 7% quelli deboli, quindi diciamo che fra i lettori deboli solo il 7% è stato, diciamo, spinto alla lettura ulteriormente dalla saga di Harry Potter. Sono comunque dati che fanno piacere. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Pietro Lacorte, vi ricordo che trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.